Anni fa, quando mi guadagnavo da vivere spezzando il pane della scienza filologica per i giovanetti del liceo classico, non mi preoccupavo più di tanto che i miei pupilli imparassero a memoria l'elenco completo dei titoli dell'opere di questo o quell'autore, sembrandomi più importante che avessero qualche vaga idea, possibilmente per cognizione diretta, di quanto quell'autore sosteneva. Probabilmente era l'ultima illusione pedagogica che mi restava verso la fine della carriera delle tante che nutrivo ai suoi inizi. Tuttavia badavo che avessero qualche minima informazione anche da questo punto di vista, così non trascuravo di far rimarcare, per esempio, come sotto il nome di Platone ci siano giunti 36 scritti di ampiezza varia e più o meno acclarata autenticità, 43 se si aggiungono i 7 che la tradizione definisce spuri, in gran parte dialoghi, tradizionalmente organizzati in 9 tetralogie, e via dicendo. Adesso non ricordo esattamente, ma probabilmente avrò indicato come rilevanti tra quelle opere, non so, il Critone, il Convito, il Feddo, il Fedone, per l'impostazione di una problematica morale di grande interesse, il Protagora, il Gorgia e alcune delle lettere come testimonianza delle grandi polemiche culturali di allora, del loro sostrato socio-politico-economico, il Cratilo, la Repubblica, il Timeo, il Teeteto, il Filebo, per la progressiva costruzione di quel sistema ideologico che Platone chiamava musica e che in seguito, con l'appellativo più tecnico di filosofia, avrebbe dominato, con risultati che personalmente giudico deplorevoli, ma ciò non c'entra, il paesaggio della cultura occidentale. Io avrò esortato a leggere almeno qualche pagina delle opere sullodate, anche se i programmi e le consuetudini del liceo di solito presentano come oggetto di lettura l'Oione e il Meneseno, che sono opere molto stravaganti, di interesse scarsissimo, ma hanno l'enorme vantaggio di occupare pochissime pagine, che è cosa che al liceo importa. Comunque non è questo il punto. Il punto è che adesso i miei allievi penseranno di essere stati truffati. Per quanti titoli io abbia elencato e raccomandato, non ho mai detto loro che Platone, con notevole esempio di preveggenza, ha scritto qualcosa intitolato Mani pulite. E invece un libro del genere esiste, Platone, Mani pulite. È stato diffuso 2 settimane fa in 300.000 copie allegato alla rivista Epoca, che appunto grazie all'inserzione di tale omaggio per la prima volta ha raggiunto questa diffusione. E si prepara a distribuire nei prossimi numeri altre opere di pari interesse come Come diventare saggi del Gotama Buddha e Lezioni di amore di Stendhal. Lì per lì, vi confesso, di fronte a quel Platone Mani pulite mi sono incazzato parecchio. Come Platone Mani pulite? Di che cosa può aver parlato il divino Platone sotto quel titolo? Non certo di tangenti e bustarelle, che erano fenomeni non ignoti ai suoi tempi, basta leggere le relazioni di Demostene, che sono di una cinquantina d'anni dopo, ma che a lui, fondatore della filosofia e uso impostare i problemi a tutt'altro livello, importavano in fondo poco. Visto il suo interesse per le astrazioni, probabilmente in quel libro ci saranno stati dei testi sulla giustizia, e infatti a più attento esame il volumetto di Epoca risulta composto di brani del Critone e dell'Apologia di Socrate, che sono dialoghi che del problema della giustizia si occupano apparecchio, ma che della corruzione dei pubblici amministratori e della necessità di porvi freno, che è ciò a cui si allude con la metafora delle mani pulite, assolutamente non fanno parola. Poco male, dite voi? Beh, poco male. In fondo si potrebbe sostenere che i curatori del volumetto Gadget non hanno fatto altro che attualizzare il loro prodotto, magari un po' disinvoltamente, con un titolo che allude alla nostra attualità, che è un peccato e veniale. In fondo poi Platone è un classico. Il bello dei classici è la loro capacità di parlare alle generazioni successive, proponendo se non delle soluzioni, almeno delle impostazioni tendenzialmente universali. E sia pure sotto un titolo un po' pera, la diffusione dei brani di un classico, che è un po' quello che io cercavo di fare con i miei allievi, invano, e resta un'opera meritoria. Eppure di fronte a quel titolo e a quegli altrettanto disinvolti proposti per Buddha, che chissà cosa c'è sotto, perché dell'Illuminato non mi risulta ci sia giunta opera alcuna, per non dire di Stendhal, che non si sarebbe mai permesso di dare lezioni a nessuno, e tantomeno di amore, c'è anche un consiglio di essere felici di Seneca, ma su questo posso anche transigere. Di fronte a quei titoli resto, se non proprio incazzato, quasi. I titoli sono, gli editori amano cambiare i titoli alle opere, ma io forse tendo a vedere le questioni di Bravia dal punto di vista dell'autore. I titoli, per la loro capacità di circolare indipendentemente dallo scritto a cui si riferiscono, sono importanti, sono un po' una dichiarazione di intenti dell'autore. Fanno parte a tutti gli effetti dell'opera, anzi, in un certo senso ne determinano il carattere, determinano il modo con cui sarà letta, il modo con cui sarà vista e considerata. Sono una cosa seria, insomma, non un'etichetta generica che si può cambiare a piacimento a seconda delle esigenze del mercato. A me dà già fastidio quando cambiano titoli gialli, figuratevi, non sembrandomi corretto che la sorellina di Raymond Chandler circoli con lo specioso titolo di È troppo tardi, figuriamoci Platone. Cambiare un titolo significa sempre cambiare un'opera, variarne l'obiettivo e il contenuto, creare in un modo o nell'altro un falso, e con i falsi non si fa molta strada. Platone, nel Critone e nell'Apologia, come altrove, ha elaborato un concetto di giustizia intesa come subordinazione del singolo alle competenze etiche dei governanti, che i governanti che per lui, come noto, dovevano essere filosofi, figuriamoci, che è un concetto utilmente discutibile in sede teorica, ma poco o nulla ci serve quando si tratta di giudicare il livello di legittimità dei governanti stessi, come nella nostra situazione attuale. Far credere che si possa utilizzare un classico, al di là delle necessarie operazioni di storicizzazione e contestualizzazione, per risolvere un problema contemporaneo, non è che un invito a indulgere al principio di autorità. Che poi lo si faccia a scopo di promozione di un prodotto editoriale qualsiasi è peggio, perché si istituisce comunque un legame arbitrario tra il grande autore e il prodotto editoriale in questione. Certo, se all'uopo si crea un falso, ci si dà ipso facto la patente di falsificatori. Pensate che il direttore di Epoca, Roberto Briglia, che poi deve essere, se non sbaglio, quel mini Briglia che era mio compagno di lotta continua e che aveva cominciato la sua carriera come direttore qui a Radio Popolare, il direttore di Epoca ha avuto la faccia di bronzo di inviare quel falso in regalo a tutti i parlamentari italiani con una lettera d'accompagnamento secondo cui il processo a Socrate tocca delle questioni che assumono enorme significato in questo momento, come se Socrate, poveretto, fosse stato processato per concussione. E senza neanche leggersi il Critone, in cui si raccomanda che il cittadino giudicato colpevole, anche se per l'avventura è innocente, si rimetta alla sentenza dei giudici anche se è ingiusta, che è certamente proprio quello che tutti gli attuali parlamentari si preparano a fare, come tutti pensiamo. La cultura classica non era mai scesa così in basso. Show you the street life.